parola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Nessuno. Tu chi sei? Ulisse, tu sì. Aspetta che c'ho il volume a zero io o si è basso di radio? Guarda, vedere. Già, ti sento con un filo di radio. Il bip si sente, ma la radio è uno. Guarda, adesso 1, 2, 3. Adesso è di lusso. Saluta, Nataloide. No, qua, via radio. Via. No, rientra. Ah, ecco perché non rispondevo, era con te. Eia, vai Natale, riprendi. Fai un passaggio. Cosa? Sei Gianni. E allora? Stavo chiamando Natale, poco fa c'era quella del condominio, non ti ho potuto rispondere. Stava rompendo le balle. Ma tu non l'hai sentito che dice che lei cambia da Enel a Enel C? Non lo so. Dice che bisogna andare via Roma a fare il cambio, se no devi staccare la luce da voi. O devi prendere il colore, devi prendere un'altra. Quindi stavano dicendo, stasera, quelli che portano i cani giù. Aspetta, già, non si è capito però, devi passare da Enel a Enel. A Enel sì, praticamente l'Enel, quella che c'è via Roma, adesso diventerà Enel sì. Enel sì, mi pare, vabbè, pare che l'hanno detto così. Dice che c'è tempo sino a marzo a cambiare questa cosa, perché se no poi ti stacca la luce, devi scegliere quella oppure prenderne un'altra, capito? Un'altra che li faccia concorrenza. Forse è nell'energia, ma io sono già da tempo con quelli lì. Ah, è nell'energia forse, sì. C'è energia, nell'energia, forse quello lì è nell'energia. Quelli che erano Enel passano Enel energia. Già, te lo dico, a me sembrano quelle telefonate che fanno quelle dei call center e dicono che ormai, dice, bisogna passare, è una scusa del genere, per farti passare in modo fraudolento a Enel energia. Comunque, qua l'Enel non ha, cioè comunicazione a casa non ne sono arrivate. Cioè, se fosse una cosa obbligatoria avrebbero mandato comunicazioni scritte o raccomandate, qua arriva solo la bolletta a pagare. Quindi finché non ci sono comunicazioni ufficiali, qua nulla si tocca. Poi se staccano la luce a tradimento vi denunciamo per interruzione in pubblico servizio pure. Quanto stava dicendo Franca questa che porta il cane giù, io gli ho detto, ma non saranno di quelli call center che ti telefonano per farti cambiare? No, io sono andato in via Roma proprio dove c'è l'Ene a cambiarla. No, noi siamo passati noi a Enel Energia, però se mi dovessero telefonare, anzi, io gli ho detto a Concetta, ritorna all'Enel, normale, cosa cazzo, tu non ci annusa già, se non ti mandano una comunicazione scritta, nero su bianco. Infatti conviene prendere sempre le case madri, tipo la TIM, l'Enel, queste case madri, perché i dati c'hanno sempre guadagno e ti fanno dei bagagli di più. Infatti, tu non ti muovi da un DC. Ma infatti, a lei dice che gli hanno telefonato per andare lì. Ma magari ti ha telefonato la call center e tu adesso andando lì magari all'Enel normale fate il passaggio all'Enel energia e l'Enel però c'è sempre e tu hai fatto il gioco loro là. Infatti non bisogna, loro devono mandare una comunicazione scritta, al telefono non vale. Ma vabbè, non dà bene. Marco, ti ringrazio per il microfono, ancora non me l'ho ritirato, ce l'ha ancora attaccato. E poi ti ha detto che il cavettino è ancora attaccato, cioè si è staccato il pirulino che va alla batteria da 9, ma il filettino è attaccato, cioè se tu lo vuoi testare il microfono e metti la batteria, funziona? Probabilmente. È tutto esterno, capito? Non si sono staccati dallo stampato i fili, ma da quella pirulino, dal polo di quell'attacco 9 volte, tutto lì. E si è staccato dal supporto in plastica nera, capito? Ho capito, sì. Ma io ce l'ho quello lì, ce li ho nuovi, capito? Li avevo comprati. comprati a Ostia quando siamo andati alla GBC. Ho visto che c'era la GBC, sono entrato e gli ho chiesto se ce li avevano, me li ho comprato un bel po'. Ne ho comprato 3 o 4, quelli lì e gli attacchi dei Midland, quelli elettrici, quelli per l'attacco elettrico, diciamo, là, per la corrente. Sì, tanto non lo uso alla fine, già, non ne uso amplificati, non voglio rischiare di disturbare, non, e non mi interessa, dai. E poi, francamente, tra i due mi piace più lo ZG, non come aspetto, perché è brutto, ma come uscita, c'è un po' più di toni leggermente alti, dai. Anche lo ZG MB più 5 buttato nella scatola, cioè, questo è inutile alla fine, non sono un maniaco della potenza né della modulazione esagerate né niente. Ma infatti poi ci sono apparecchi che escono già bene così senza averlo amplificato. E vabbè, ma tanto per averlo, magari ti serve come sostituzione, magari ti si rompe un microfono e ce l'hai. Però, per dire, allora io sto usando il microfono originale del 3009, no? Questo marcato Star che viene con questi 3009 omologati, però io ho già la sostituzione, il Lafayette DMC, come si chiama? 507 in fare, e quello è ancora più pulito di modulazione. Ce l'ho già da parte, anzi è tutto impolverato, devo pulire, non lo uso da un bel po'. Vai Natalino. E quello è da tavolo? No, da Palmo, DMC 507, guarda che lo fa anche la Midland, la forma è stessa, quello che mettono sugli Allan 48 Colt, tipo. No, sui Colt mettono microfoni normali, mettono quei microfoni normali della Midland, o CTE. Neri sono, quello nero. Come Calimero. E adesso bisogna farci girare anche un po' l'altro, sempre con questo. Così mi dite se la rode è meglio questo o l'altro, dai, vediamo un pochettino. Facciamo girare anche il Magnum, se non ve ho tanto. Hola, mi ascoltate, Gabio? Chi è? Aspetta, ci deve essere qualcosa che non va. Devo controllare. Ci deve essere lo squarcio chiuso, ho sento QRM. Aspetta un attimino. Quella è l'antenna silenziosa già. No, non è possibile, non c'è né nulla QRM. Aspetta. RFI. Squarci. Era lo squelci che era chiuso, l'avevo chiuso per l'FM, ecco perché, mi ricordo adesso. Cabagada. Come mi ascolti meglio, con questo o col Galaxy Saturnet? Guarda, sono belle tutte e due, questa è lo stesso, bella forte, niente da dire. Non saprei scegliere tra le due. Secondo te, Natalino? Mi associo. Natalino, di poche parole, l'uomo che non deve chiedere mai. No, c'è bella, a parte gli scherzi. Quindi, ascolta, è a parità di apparato, come lo senti? Più silenzioso comunque, fai orecchio, con l'antenna nuova. Sì, è più silenzioso. Già è bella quell'antenna. Ma quanto ho capito, anche Eugenio se la sta prendendo quell'antenna. Sta dando la energia, sta mettendo quella lì, cioè se la ordina. Sì, voleva vedere l'Energy 30 euro l'altro giorno. E poi, non lo so. Se si mette d'accordo con qualcuno a vendersela, se la prende, ha detto. Ma tanto se la prende lo stesso, perché l'ho convinto. Aspetta, per 30 euro lui ce l'ha pochi mesi, praticamente è vergine quell'antenna. C'è da comprarla e tenerla a usi futuri o rivenderla ad amici, a conoscenti che ne hanno bisogno, per installazioni temporanee, io già ne gioco. E la voleva dare 30 euro. E l'ho detto a Gioco di Palotto, ho detto no, che ce la prende nuova, che lui è partito dalla Mantova, va detto. E vabbè, anche quella già è bella, dai, come antenna, va bene. E poi la Mantova pesa un carascio, quella pesa la metà. Cioè, il bello dell'Energy è che è leggera e sottile. Magari c'ha un po' meno di larghezza di banda, forse qualche un dB e mezzo di guadagno in meno, perché io sono sicuro che la Mantova rende comunque di più. E comunque 30 euro di lusso. Quanto ce l'avrà? Un annetto, nemmeno. Sì, non lo so, bisogna chiedere a lui. pesa, pesante. Scusa, Cla, abbiamo parlato in due. Sicuramente sei passato tu, ciao. Riprendete, dai, che scaldo la roba da mangiare qua. Ho detto, adesso la mantola è diventata anche pesante. No, è stata sempre pesante, Cla. Bisogna dire, una bella antenna, però in confronto alla energia è pesante. Perché la mantola con l'antenna, la energia è una cagata. E l'altro giorno stavi dicendo che era un tema eccezionale, avevi detto a Nicola, lupo grigio, allora è diventata una gagata. No, diciamo che è un compromesso, Claudio, come tutti i compromessi, giustamente non avrà il guadagno della Mantova, non regge i watt della Mantova, poi come resistenza non lo so, perché essendo sottile il vento, anzi, la attraversa meglio. Poi i radiali sono solo 3, deve essere anche il minimo sindacale. Invece sa qual è un'antenna veramente fatta male? È simile ma è fatta molto male. Allora, la Sigma Eurocom ha 3 radialini corti, pare una X30. Quella dentro, alla base, anziché la bobina, c'è uno schifo, aspetta come spiegartelo, c'è una specie di resistenza grossa, praticamente è un mezzo carico fittizio. Ricordati, Sigma Eurocom tipo Energy, adesso il modello non te lo so dire, quella è veramente una cagazza. Ehi, questo è quello che mi piace di te. La Mantova è la numero uno, e non si scherza per nessuno. Le altre sono antenne che funzionano, la Mantova e Mantova non c'entra affatto. Io sto parlando a differenza della Energy. Che cazzo facciamo le comparazioni Mantova-Energy? Se puoi mettere un'antenna di fortuna, metti la Energy, Nicola. Certo, se la metto io la trovo vaginale con l'antenna. Di qua stiamo parlando, adesso è pesante, un tubo d'alluminio è chiaro che è più pesante della Energy, più pesante di quella che c'è Gianni perché è un tubo in PVC, ma se parliamo di antenna, costruzione di antenna, è antenna, la Mantova è un'antenna, punto, non si discute con nessuno. Sì, è stata sempre una bella antenna la Mantova, niente da dire, tanto vale che l'avevo presa anche io, tanto è vero. Ma adesso che ho piazzato questa sono più tranquillo, ecco, e quella lì magari si infrangeggia nei gaggi e vazidata. Troppi anni c'era, capito? Non c'entra niente, tu hai fatto una scelta per i radiali, Gianni, c'è poco da discutere, anche quella si, i tubi si consumano, cosa pensi che tra il caldo e il freddo quelli non si consumano, si spaccano? Cosa pensi che sia eterna con l'antenna? Tutte le cose che stanno fuori si consumano. Quello è un tubo in PVC, se fosse stato in polietilene era diverso. Secondo me l'errore che hanno fatto. Il PVC tra il caldo e il freddo intanto si diventa giallo, capito? Si consuma e fa la stessa fine che fanno tutte le cose che rimangono fuori. Non è un'antenna eterna. Io veramente non devo dire niente. Non devo dire assolutamente niente, è un'ottima antenna, è un'antenna che prestazioni a 1000, forse rispetto alla mia posizione, ma chiunque l'ha avuta ha sempre funzionato bene, non è radiale, non me ne sono mai caduti, è sempre lì, bella, ordinata, adesso quest'estate infatti devo fare lavori, quest'estate, primavera, a marzo fare lavori sul tetto, quella lì la abbasso, la pulisco tutta con la acciaio, la rifaccio lucida, la rimetto la vera e va bene, vai a mangiare Marco, vai, via da te che mangia che ciò, ragazzi, per carità. Ciao Natali. Ciao Fla, quando hai detto che la energia era... mi sono commosso pure. Invece facciamo le comparazioni della Mantova. Rispetto alla Mantova chiaramente una cagata, pur che sia un'antenna che funzioni, qualità prezzo, tutto quello che volete, però non è un'antenna sicuramente che posso montare io qua a 40 metri di altezza, nel modo più assoluto. La trovo alla Sinara e la spezza in due, come ha spezzato quella di Mauro, i punti, la stessa cosa. Mauro non ce l'ha quella lì, guarda quella c'è alta lì. L'ho spezzata dove c'è l'aggancio dei cavallotti, il vento, quindi stesso, da Eugenio ha riparato Gianni, tu lo sarebbe che Eugenio, ambita all'interno di una campagna, vita Sassari mai riparato, niente ne prende poco, provo a metterle a questa altezza la Energy, o dove Marco lo stesso, che vento prende, c'ha 2 metri di tubo, provo a metterla qua, vedere cosa arriva della Energy, faccio l'Energy. Va bene, perché tu Gianni sei con Enel, Enel è normale, io sono già passato 5-6 anni con l'energia, mi è già arrivata la lettera, una conferma di cambio, nel senso che prima era libero, come si dice, libera vendita, eccetera, io sono passato quando era libera vendita, adesso che l'energia è diventata la casa madre, io sono già là 4-5 anni, non mi ricordo, fatelo perché poi succede casino, entro quella data dovete fare la voltura, fare la richiesta scritta, raccomando ricevuta il ritorno e confermare ciò che loro ti chiedono, se no è un casino. Io l'ho già fatto in campagna. Boh, io devo controllare, non me lo ricordo se solo è nell'energia, non me ne metto più, perché me la pagano in banca, quindi mi mandano solo la fattura a casa e buca, se c'è l'incanalata in banca. Andave. Vabbè, dai. Comunque, non so dove avete Eugenio, perché ho fatto anche consegne vicino a casa sua e ho visto dove c'era il furgone, tutto quanto, l'antenna. Lo so proprio dove abita, perché ci sono passato davanti a casa sua. Sì, io mi abito, ciao lui. Hai messo a posto, ho visto che hai messo a posto, cos'era, un PL? Tuca giudici. Si deve essere staccato di nuovo. Oh, c'è qualcosa online, dice una cosa del genere. Dal 2020 addio Enel servizio elettrico, obbligatorio passare al mercato libero. E fa l'esempio di Enel Energia, no? Quindi è vero, però fino al 1 luglio è tempo, però il fatto già che sia un obbligo passare al mercato libero vuol dire che il mercato non è libero, alla fine nell'energia diventerà monopolio lo stesso come lo era il servizio elettrico, alla fine il mercato libero non è libero. Riprendi Luca. Niente, vai Claudio. Ma prima Enel era Enel distribuzione, non esiste più Enel distribuzione, e sul mercato libero, siccome la casa madre è Enel Energia, nel mercato libero c'è Enel Energia, loro chiaramente ti dicono di passare su Enel Energia, non ti posso dire passare su Edison, su tutte le altre cagate che ci sono, ti dicono di passare su Enel Energia, giustamente. Io ci sono già da... avevo fatto il cambio, già da 4 anni fa, sul mercato libero avevo scelto Enel Energia, mi trovo molto bene, non ho problemi, vabbè io ho 4 kW e mezzo, non ho 3 kW, per i problemi appunto delle radio, degli amplificatori e balle radio, e mi trovo bene, rispetto a uno che ha 3 kW e pago, mi pare, una ventina di euro in più ogni 2 mesi. Però posso attaccare qualsiasi cosa, lavatrice contemporanea col forno, scaldabagno attaccato, asciugacapelli, posso tenere tutto attaccato, invece con la maniera mi si staccava sempre il contattore, salvavita scattava, capito? E quindi visto che usavo anche gli amplificatori, ce l'ho ancora ma non lo uso più, avevo fatto 4 kW e mezzo. Va bene, Enel Energia, questo è quello che dicono loro, poi ognuno può scegliere quello che vuole, per carità, però penso che sia la migliore energia. Ma se quella cosa è la migliore, per te paghi sempre di più, per poco di va. Vabbè, adesso vediamo. Andare, anche questa è una cosa da fare, se vuole fare. Se vuole fare sì, perché se passa il mercato libero devi decidere. Allora ti consiglio, ripeto, Enel Energia, a me ne va per... già la lettera, addirittura figura, se confermavo, è certo che confermo, ci mancherebbe altro, metto a cambiare, eseguo Giamba, l'ho fatto anche per campagna e energia, quando hanno attaccato il contattore qui. Vai Natali. Io sono da parecchio tempo lo stesso con energia, capito? Quindi non devo già mangiare. No, ma va bene, sono abbastanza onesti, abbastanza... Quando me una volta riuscivo a leggerlo, perché ogni mese mi faccio la lettura e poi confronto, ma è sempre perfetto. Sono venuti immediatamente, me l'hanno sostituito, capito? Non c'è problema. Luca, come ultimo è Luca? Luca sta arrivando a 9.05, sta arrivando, l'altro giorno a Santiago 3. Sarà stata umidità dell'acqua, si avrà bagnato l'antenna. Sarà adesso, o meglio sta andando? Sì, c'è un'attenzione, 10, grazie, ti faccio passare. Sì, lui, adesso è il tuo segnale. 9 più 5 quasi, l'altro giorno è Santiago 3. Avanti l'attenzione. Va bene Giuseppe. No, no, negativo, va bene. Ehi, ciao, ciao Giuseppe, siamo qua, se vuoi rientrare. Avanti, Claudio. Ciao Giuseppe, sì, va bene. Non te lo 5 perché si è un po' quarremato, però, dal segnale, ma 4, buona la radio, comprensibilissima, va bene. Avanti, Natali. Ciao Giuseppe, ben sentito. Già stai andando bene, dai. Vabbè, io me la sento, là, arrivo subito, che sono uscito presto, siamo andati a fare delle commissioni, adesso no, faccio una doccetta, arrivo subito. Oh no, ma questo qual è? Quello che usi a casa di tua madre, il baracchino? Eia. Cazzo, c'è una radio, cazzo micidiale. Devo prendere il pastiglio un attimo. Va bene, dai, già va bene. No, sono lo Smith, l'ho tarato, Ho tarato con Luca, con Gianni anche, sicuramente mi arriverai quando ti arrivo io a tempo. Se l'hai tarato bisogna vedere, comunque questa è micidiale. Ottima radio, bella, forte, veramente molto bella, Va bene, vai fatti la doccia, ci sentiamo dopo allora. Vai Natali. Questa è già, quell'apparecchio era il mio, gliel'ho dato io a lui. Natalino, solo che la carcassa non l'aveva dato nuova, cioè mi ha avviato un microfono nuovo, là, diciamo, l'MB+4, se te lo ricordi là. Io ti ho dato l'MB+4 nuovo e tu hai messo il circuito in quello nuovo. Allora, l'ho fatto così. La carcassa vecchia, quando l'ho fatto Natalino, vabbè, usata, con il circuitino nuovo l'avevo data Maria Luisa. E invece la carcassa nuova, cioè il microfono nuovo, mi aveva dato tu. Avevo messo il circuitino di quello di Natalino. Esatto, esatto. Io ce l'ho l'MB, ho l'MB+5, l'avevo nuovo, il Flaumario che ho comprato da Gigi. Già modificato, ma è una bomba lo stesso, con l'Alan 48 è una scheggia. Anche con l'Elbeck si va molto bene. Va bene, va bene. Marco. Io qua sto divorando roba, dai. Ascolta Claudio. Siccome l'altro giorno era acceso, ma stavo vagando da una cara all'altra. La situazione di Nicola com'è? Lui cosa vuole? Chiedere al condominio o roba del genere? Lui lo sa che il condominio comunque non è che può dare o non dare l'autorizzazione, si comunica solo al condominio che la sta emettendo, ma non posso nemmeno negarla l'autorizzazione. Cioè queste cose le avete spiegate un po'. Ma come non ho parlato di niente, non ho chiesto le informazioni inerenti alla frequenza amatoriale, balle varie, ma non lo so. Penso che comunque non abbia problemi, visto che è uno che ha lavorato per tanti anni in divisa, quindi sa perfettamente come si deve muovere. Perciò non penso che debba scontare i consigli di nessuno. Chiaramente dovrà comunicare al condominio, lui sta montando un'antenna CB per apparato di debole potenza, credo che non abbia problemi, una discesa di cavo, non lo so, io non so manco dove abita, figurati. Beh, la zona dovrebbe essere via Principessa Iolanda, penso verso Viale Trieste, o a metà o verso Viale Trieste, sì, in base al segnale dovrebbe essere una cosa del genere. Sì, poi lui ha fatto un certo lavoro, certe cose bene o male le saprà, o saprà, dovrebbe scaricarsi anche quella legge dei diritti di un'installazione d'antenna, no, per i condomini un po' duri d'orecchio. La cosa seccante è che in condominio, sì, sono magari tutti amici se si va d'accordo, però poi con piazza in antenna cominciano a non salutare, a farti le facce brutte, cioè per, come diceva Natalino, per far valere i propri diritti, cioè o rinunci ai tuoi diritti sei amico di tutti oppure far rispettare i tuoi, valere i tuoi diritti, però cominciano a farti le facce brutte, a non salutare più. Capito come sono i cari condomini. Dai, riprendete. Non so, sicuramente si saprà muovere meglio di quanto li possiamo consigliare noi, non lo so. Avanti Gianni, riprendi. Gianni è andato a prendere la battiglia, vai Natale. Fatto, di nuovo impostazione. Impostazione, si sbucato, sì. Vabbè, vedi tu. Se avessi avuto il dolore che faccio io, non avevo vittato, io non posso stare in piedi. Che vediamo, beh. Che non hai posto, non sei come me, no? Io sono nella poltrona, bello seduto, tranquillo, anche a me fa male la schiena, però c'è un'impostazione diversa dalla tua, c'è anche la tua chiesa, che affanto sono stato, sto viaggiando a Olbia, facevo un sacco molto. La mia è una postazione rilassante, l'ho studiata apposta perché io so che sono così, dormo dopo pranzo e via dicendo, quindi me l'ho messa qua per quello. Sì, vabbè, diverso tipo di attività già, non me lo possiamo in camera letto. Io ho la sala radio e apposta per fare quello, quando devo dormire dormo, le radio sono spente, sempre fatto così. Che noi alle barba, che noi alle barba, ma guarda giù, certo, 7 ma un quarto già, manca corpo, non so, 5 sono rientrato, porca troia. Lo vedi a Olbia? Sì, sì, sì, c'ho lavoro a Olbia, c'ho lavoro a Olbia. Vabbè, adesso la strada dovrebbe essere meglio, no? Sì, io, vabbè, facendo no, smaltellamento. Più bonifica, ma il vecchio depuratore. Perché prima io sono da quando c'era la strada vecchia che non vado a Olbia. Prima, vabbè, era un po' garibù, si c'è stata, tutta buccia male, c'è strada. Adesso magari l'hanno fatta bella. E io ce ne punti ancora, che vuole finita, però già va bene, vai. Adesso ci vanno le domani. Tu devo seguire alcune cose qua a Sassi, un altro cantiere qua a Sassi. Vabbè, bisogna fare per ammucchiare, vero Marco? Marco sta mangiando. Gara, vabbè, bisogna fare sì. Chi può lo fa? Io non posso, non ce la faccio. Qua adesso sono a duri da crepare, non so in che posizione mettermi perché mi fa un bel male il femore. Vabbè, non è questione di io, perché sono in giro a destra, a sinistra, a seguire, fare, comprare, spendere, ma non è che... E io stavo aspettando quello, prima non potevo fare, perché ero dipendente, adesso c'è la mia azienda e fino a quando Gesù Cristo mi lascia faccio quello che mi pare piace, nonostante percepisco quello che percepisco, però io voglio rifare, no? Avevo già voglia di farlo prima, ma ti ripeto non potevo fare. Adesso lo posso fare, finalmente ci sono riuscito. Come la tua azienda? Perché la tua è l'azienda. E allora di chi è l'azienda? Adesso ti sgamano, ti ribigliare la missione. Ma non è interessato a me, no? Una società familiare. Ah, ecco. Perché così non so se lo puoi fare. E che tipo di azienda è? È una società cooperativa di servizi. Non hai mai visto la pubblicità. Servizi di che genere? Servizi pulizie? Cosa ha fatto? Ti mando la pubblicità, lo vedi già. Di tutto. Cantieri, di tutto. Di tutto, di più. Anche costruzione, sana pianta. Con progettazione. Quindi sei diventato imprenditore, va? Beh, piccolo imprenditore. Ma capitale sociale è 50.000 euro. Così si inizia, vediamo. Qua teniamo già due o tre. Questo di Olbia è molto bello, molto grande. Almeno pagato. Vabbè. Allora, bocca al lupo. A gennaio mi siamo partiti. A gennaio, vabbè, era già posizionata da novembre l'anno scorso. Lavori piccoli qua a Sassari. Il resto devo partecipare che era fatto, che faceva il Gabriel. Io ero ancora convinto che se si lavorano col condominio a fare manutenzione. Da lì ho iniziato. Ma sei in società con quello là, con il compagno di scuola? No, non lo chiamo quando mi serve, prima lo chiamava a me, se lo chiamo a lui, no, tutta società familiare, siamo io, fratello e mia moglie e mia figlia. Ah, ecco, ma l'aria poi l'ha aperta quell'attività? Quella fa parte della società. Stiamo facendo i lavori. Vabbè. Buon pro di vozia, dai. Avanti, Tattarino. Sono qui, solo che mi hanno acceso la televisione, non stavo parlando per quello. Che dispetti ti sta facendo, Concetto? Giulia, femminile, si occupa Fujimini. E mettiti le cuffie, no? Scusa, ti vuole le cuffie e fa vedere un mattesso. Marco, ci sei? Sì. Eia. Va bene, sì, stavo leggendo sta roba del Mercato Libero, eccetera. Va bene, si può, non cambia nulla, mi fai la voltura, la richiesta, e tu finisci lì, il contatore rimane quello. Arriva la bolletta con la nuova intestazione e basta. Basta che non alzino i prezzi, però. Sai com'è la regola del mercato, no? Prima che adesso ti accaparri tutto il mercato, no? Facendo prezzi bassi. Dopodiché quando sei monopolista alzi i prezzi. Così faranno i cinesi per tante cose. Aspetta un messaggio. Riprendete. Eia. Vabbè. Un po' tutti fanno così, Marco. Cosa vuoi fare? Quello è commercio. Guarda, ti ho mandato le due pagine dei cosi praticamente della pubblicità che è uscita. C'è la pagina dove c'è l'intestazione, come si chiama, poi tutto quello che facciamo. Ah, una curiosità, Claudio, ma siccome gli operatori saranno anche più di uno, non sei obbligato a scegliere nell'energia, puoi scegliere anche un altro degli operatori del mercato libero, giusto? Ma ti stai riferendo all'Enel? Per l'energia elettrica. Poi non so chi altro la faccia l'energia elettrica. La verità, sono molto disinformato. È chiaro che chi è ancora con Enel distribuzione, nel senso Enel casa madre, non ha mai fatto richiesta nel mercato libero. Enel cosa ti dice a te? Ti dice che da quella data Enel distribuzione non c'è più. Quindi ti consiglia Enel Energia, che fa parte del mercato libero e del gruppo Enel. Capito? Però tu non sei obbligato a scegliere Enel Energia, puoi scegliere Edison, puoi scegliere, ce ne sono tantissime, ce n'è un mare. Però io vi consiglio, per esperienza mia personale, di scegliere Enel Energia, perché è del gruppo Enel e qualsiasi problema c'è interviene sempre l'Enel. In quella maniera ci sono dei passaggi dove poi ti mettono roba da pagare, capito? Vabbè, allora si andrà su Enel Energia direttamente. Però almeno non ho dato la soddisfazione a quelle del call center di passare prima. E quante volte ci hanno chiamato, mamma mia, per carità, per farti passare. Poi addirittura le operatrici o gli operatori più in malafede, anche se tu dicevi di no, firmavano a tuo coso, no? Se ti trovavi, qualcuno si è trovato due bollette da pagare, una di Energia, perché qualcuno ha avuto l'incauta, come dire, sai che ti chiedo il numero, il codice cliente, no? Qualcuno gliel'ha dato, poi ha detto di no, che non ne voleva, e gli operatori pillonfi hanno fatto il contratto lo stesso, come che il cliente avesse accettato. E succede anche questo, quelli sono disperati, poi col center esteri, hai visto, chiamano anche da fuori, dal coso, dall'Albania, da dov'è, Romania, quelli credo che vadano a provvigioni. più contratti fanno, più li danno, meno ne fanno, meno li danno. Vai Gianni. Ma più che contratti si deve andare in ora a mare. Io tutti quelli che telefono, ecco, guardi, non mi interessa, sto lavorando, mi scusi, arrivederci, richiedo il telefono. Eia. Ogni tanto chiamano questi numeri al cellulare, prefissi strani, tipo 011 022, e poi vai a controllare tipo Marocco oppure altri posti strani, e tutti imbrogli sono, amico, comunque tutti imbrogli. Consente internazionale, ciò devo dire, che manco gli rispondo, qua è li blocco subito, così non rompono le palle. L'hai visto Gianni? Ehi, ho visto qua. Io quando vedo scritto fuori aria nel telefono non rispondo nemmeno, o Milano, o Torino, o cosa, non rispondo nemmeno. Sì, ma ce n'è anche internazionali. Anche internazionali, l'altra via c'è Maduro, gli Stati Uniti. Non si capiva un cazzo parlando. Mi scusi, ma che cosa vuole? Ascolti, arrivederci. E mi saluti a Gheddafi. Una volta ho detto scusi, ma lei di che nazionalità è? Potrei parlare con un operatore italiano? Dice, ma perché io lo stesso, faccio lo stesso lavoro, dice, io va bene parlare con me? Ho detto no, o mi fa parlare con un operatore italiano o sto chiudendo, infatti ho chiuso. E anche i disponenti diventano le volte. Uno mi ha detto, guarda che sto registrando telefonata, anch'io ho detto sto registrando telefonata, non si sa mai cosa ti dicono. Va bene, Natalia, beh, ma non puoi parlare perché parlando disturbi concetta. Ho disfetto l'assento adesso, il telefono, il televisore. E un'altra cosa Marco, state attenti quando, perché siccome loro hanno un tabulato dove chiaramente sanno a chi è intestato il contratto della luce, quindi il contratto Enel, il contratto chiunque sia, se ti dico parlo con il signore Claudio Amati e tu dici sì, quel sì loro registrandolo fanno un giro di truffa, come ha detto Striscia la Notizia, e ti fanno direttamente il contratto e te lo mandano a casa e ti dicono che tu hai detto sì, capito? Quindi state molto attenti. Lo dico, lo parlo con sì e io con chi parlo? Oppure basta dire un'altra cosa? Con chi vuole parlare lei? Senza dire subito sì, perché quel sì può essere molto da tranello, eh? Questo me l'ha spiegato proprio uno dell'Enel. Dove vogliono loro, sì. Magari loro mettono davanti, accetta questo contratto, sì. E gli fanno il montaggio audio, capito? Basta dire altro, chiedi, tra l'Italia, no, con chi parlo? Guardi, sono Paolo Uccello. Un giorno gli ho detto, uno così, mi pare che era, infatti mia moglie si è incazzata, si è maleducato, ma non si è meno affutto, si è maleducato, ma questo non ci permette due del pomeriggio a rompermi le palle, era quel periodo proprio che mi caramagliavo, avevo appena finito a lavorare, e mi ha detto, parlo con il signore, mio nome, no, nome e cognome. Io mi sembra che gli ho risposto, ma perché, cosa cazzo vuoi? Sì, quello non è niente. Uno mi ha fatto sclerare di brutto. Cioè quando ti parta l'embolo. E lui, maleducato, è razzista, io lavoro per far mangiare i miei figli. Ma non me ne frega niente. Qua state telefonando tutti i giorni a rompere le cose con questi abbonamenti telefonici. Ho detto basta. E questo continuava. Poi vabbè, si è stancato. Un giorno mi è partito l'embolo, tipo Sgarbi. Io invece a uno che stava assistendo gli ho chiuso il telefono in faccia e mi ha richiamato e mi ha detto che non ero molto educato, questo che allora ci ho mandato in affanculo direttamente. Sì, anche qui in questo caso l'ho richiamato dicendo regista, ha detto ma se tu sei un rompiballe puoi essere giallo, nero, verde, arancione, non devi rompere le scatole con queste cose, è una cosa continua, purtroppo è legale, dovrebbe essere legale. Va bene, dai, prendete. Mi si asciutta la bocca, se no. Buonasera a tutti, ultima chiamata di questo pomeriggio dal Regno Unito. Ciao Giuseppe, ti lascio in compagnia di Gianni Natalino, dai, mi allontano un attimo, ho già, che mi devo preparare due cosette per domani mattina. metro subito riprendi. Ehi, avanti Giuseppe, che contratto è fatto? No, nessun contratto, ce l'ho mandato come una fattura. Senza me mi ha richiamato uno, perché l'ho chiuso il telefono, mi ha detto che l'ho maleducato. Allora gli ho detto, esco, fa una cosa, vai vieni a fanculo. Mi hai svegliato, sono una persona che sono malata. Mi hai svegliato, era dolore tutta la notte, cazzo, adesso che mi stava soffrendo mi hai svegliato. Cosa vuoi che ti tratti bene? E allora si caglia duro. E anche a me l'altro giorno, uno da Napoli. Con il coraggio di richiamarmi, però ma non so quanto ci sia convenuto. Sono insistenti, capito? Li dici di no, insistono, ma qua, ma là, e continuano a parlare. Io molte volte li lascio parlando, gli stacco il telefono e via, e si abitano in luce. Molte volte dico che sto lavorando, che non ce la faccio a rispondere, che ho fretta, che devo andare, che li trovo scuse, ma molte volte dico non mi interessa, pure li saluto il telefono. Allora, vediamo un po', anche se c'è Natalino e l'amico che sta modulando insieme a noi. E questo microfono io l'ho adattato poco fa ed era del Galaxy. Come sta uscendo? Bene, sì, di certo le Galaxy. No, del Galaxy è questo qua, proprio l'originale. Va bene, nel Galaxy ci puoi mettere l'eco. È un microfono normale, Giuseppe, però la voce è abbastanza presente e tranquilla, non c'è niente da dire. Ma lo fai perché? Perché avevo gli altri due. Chi, Giuseppe? Perché erano amplificati, forse innescavano, capito? Perché i microfoni amplificati quando ci sono stazionari innescano, mentre invece se lo metti normale non innesca. Dai, facciamo girare, non voglio rubarmi la scena, avanti. Marco da questa parte, sì, la modulazione è buona, diciamo il segnale è un Santiago 5 con fuori QRM sotto, quindi però è capibilissima. Mi sa che non mi sente già. Lo senti a Marco, Giuseppe? Sì, ti ho sentito, io qui arrivi bene. Più o meno, a me mi senti Giuseppe? Ciao Luca. Come mai ti ascolto basso basso? Gli altri giorni eri intorno ai 3-4. E adesso? Prova. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Non sei oscillante, boh. Questa volta ti sentivo molto meglio, boh. Anche qua è salito il segnale, Santiago 6 modulato 7 e la modulazione è migliorata tanto rispetto al QRM di prima. Va bene, dai, l'importante è sentirsi. Marco, tu mi ascolti, sì? Santiago 9, Luca, la radio è un bijou. Ah ok, dai, facciamo non mi sentite. Andava, Giuseppe, io l'altro giorno lo sentivo molto meglio, no, se va bene io c'ho l'antenna, alla fine chiamiamo l'antenna, una mezz'onda, ma già va bene, era per parlare qua, poi appena mi faccio costruire la Game Master, adesso vediamo questi giorni, poi la piazzo su e qualcosa cambia, dai. Penso un bel po' cambia. Olu, ma tu hai la mezz'onda, ma ce l'hai interna, dentro casa? No, è terrazzo, è piazzata, è un radiale di mazzo qua, Marco. Ah, un radiale, no, ma magari mezz'onda non ci arriva, volevi farti la canna da pesca, se è fatta bene è buona, se no c'era Eugenio che stava vendendo la Energy come... €30, nuova praticamente, c'era da pochi mesi. Ma c'era la 5 ottavi? Eia, guarda, è la stessa che c'è a Natalino, che c'ho io, diciamo rende forse un po' meno della Mantova, ma è leggerissima, basta anche un metro da un palo, sì, un metro da un palo, sì, buonanotte, un palo da un metro. Se rende di più la Game Master oppure questa qua, non lo so, ma comunque se è fatta bene. Giulio ne aveva fatta una che era un bijou, ho sentito che non la distinguevi quasi dalla vera, sia come aspetto e presumo anche come resa. Sì, se è fatta bene, infatti la canna da pesca regge anche, dovrebbe reggere bene il vento, capito? Comunque, ho Gianni, per 30 euro, guarda che era da comprare comunque l'Energy, da conservare per usi futuri o installazioni temporanee, lo sai, da rivendere in seguito, non lo so, 30 euro mi... Cioè costa di più la Ringo, quella schifetta Ringo Lem, quella che ci avevo buttato io me. Vai Gianni. Infatti la sta svendendo per comprarsi quella lì, ma quella lì, con l'antenna lì, costa solo 90 euro, confermi. Eia, cioè è prezzo al pubblico 90 euro, siccome Eugenio è più simpatico gliel'aveva data a 60 euro, incredibile me, o forse voleva svuotare il magazzino anche. Se la compri online costa un po' meno di 90, vabbè, più la spedizione, alla fine siamo lì, una media, siamo lì, dai. Comunque, Claudio prima diceva, il rapporto prezzo-prestazioni va anche bene, però se pensi che una mantova la pagavi sui 120 euro, prezzo onesto, e non parlo dei ladri, e allora costa, la Energy se la fanno pagare un po' troppo come rapporto prezzo-prestazioni. L'unica cosa è che è leggera, e quello è impagabile, soprattutto chi è in condominio, chi non vuole tirantare, quella credo sia la scelta migliore, oppure una canna da pesca. Vai Luca, vai Natalino. Meglio la canna da pesca, secondo me. Si è fatta bene anche la pesca a rende. E credo che rende. E poi sai perché la sta dando Eugenio? Credo di aver capito che la stia dando per il problema cornacchie, perché le vede sempre appollaiate sui radiali e bene o male prima o poi cederanno, capito? Come danno la botta per spiccare il volo, no? Almeno la Energy, sì, buonanotte, quella di Gianni, la Game Master non ha radiali, un problema in meno, risolto il problema radiali che si spezzano, che volano via, eccetera. E tanto non si sono arrese, sono andate sui tirassi stamattina perché li ho visti io. Vabbè, però sui tiranti, vabbè, già elastico, no? Non succede niente. Una volta l'ho vista anch'io, mi poggiate sul radiale, poco tempo dopo che era stata messa, ho detto mamma mia, adesso queste mi spaccano tutte, invece poi hanno resistito, sai perché? Perché ci sono palazzi più alti in zona, allora vanno sui palazzi più alti. Sì, ma magari da Claudio non vanno perché è troppo in alto e non volano così in alto, è difficile. Allora se ne vado vicino. Ma sai cosa fanno? È sparito anche un gattino, perché in cortile ci sono i gatti, no? E hanno fatto i gattini. E ne è sparito uno, lo stanno cercando perché ci sono quelle donne che gli danno a mangiare, tutto quanto, l'hanno chiesto anche a me, se l'avevo visto, se l'aveva mangiato qualche gurlaccio. Ah, cinese. Chi lo sa? Oppure è stato adottato da qualche anima pia, non lo so. Ma il cornacchia ce la fa a sollevarlo il gattino appena nato? Forse Cimmi, se è grande e adulta. Ha voglia, ma sai io sopra il tetto cosa ho trovato? Di teschi e di gusci di tartarughe e anche piccolini. Sopra il terrazzo, quando sono salito una volta, era tutto pieno. C'erano anche quelle tartarughine piccoline, magnate, e solo i gusci c'erano. Infatti i gusci li avevo presi come soframobile, e invece qualcuno mi tira lampati. Ah, così, e quindi si prendono i maletti e se li mangiano con calma sui tetti, sui terrazzi, eccetera. Ehi, la cornacchia l'ho vista quasi avventandosi un gatto adulto, proprio facendo stava il gatto, ha retroceduto, cioè è fuggito il gatto, perché quella poi va a puntare gli occhi, va a beccare gli occhi, la zona più sensibile. Anche a Tyson si stava avventando, era sopra un muretto, Tyson l'ha vista e ha cominciato e Tyson l'ha ringhiata e si stava alzando, si alzava per attaccarlo, ha giubilato un ruscio e era giù e qui se l'è volato, ma lo stava per attaccare e si tirano agli occhi, agli agnelli di barra agricola, sai cosa li facevano, li tiravano gli occhi e li ammazzava e dopo si rimaniava. Mamma mia, se non il gabbiano rubando il cibo, sai, sopra il Nautico, no, quella via che passa sopra il Nautico, dove c'è la colonia di felini, ragazzi, il gabbiano beccando il gatto a schiena per rubargli i bocconcini. Allucinante, allucinante. Quella è Piazza Petrarca. Non mi ricordo mai il nome. Mamma, ogni giorno che tornavamo da Frottola, se mi faceva fare tappa lì per vedersi i gatti. Infatti Flo l'abbiamo adottata da Pro Torres, capito? E quello perché non era una gatta randagia, era una gatta di casa che era stata abbandonata perché era incinta. Capito come fanno lì? Anziché risolvere il problema portandola al veterinario, perché costa, l'hanno abbandonata incinta, invece noi l'abbiamo presa. Purtroppo i piccoli li abbiamo dovuti sopprimere, poi sterilizzata pure per evitare incidenti futuri, e l'abbiamo tenuta con noi. Anche perché quella gatta, non essendo randagia già dall'inizio, non veniva accettata dal branco di gatti. L'attaccavano, allora lì stava nascosta su una specie di albero basso, lo sai. Poveretta, e quindi avrebbe fatto una brutta fine, l'abbiamo adottata. Chiedo scusa, mi assento un pochino, ci sentiamo troppo. E io Giuseppe, siamo qua. E molto avevi pagato, te lo ricordi, per fargli la sterilizzazione? Allora Gianni, io qui lo dico, qui lo nego, perché è già vari anni fa, potrebbe essere 120, però non era solo sterilizzazione, era anche la rimozione dei cuccioli, che anche se è una cosa contro natura, non potevamo comunque occuparcene, e poi non ne vuole nessuno, nemmeno a regalo, capito? Quindi a malincuore li abbiamo dovuti far sopprimere. E questo alla veterinaria, quello in via Venezia, non via Venezia, via la veterinaria, dai. E alla clinica veterinaria, ho capito, via Milano, lì. E io manco i nomi delle vie, conosco lì. Così proprio la clinica veterinaria. E vabbè. E comunque la gente non ha scrupoli a abbandonarli incinta ai gatti. Perché sai, il gatto, magari questi gatti non di razza, sono a costo zero, regalati o trovati in strada, quindi per risparmiarci i soldi l'hanno mollata lì. È anche vero che molti vanno a dargli da mangiare i gatti lì, ci sono uno o più signore proprio che ce l'hanno come passione. E vabbè, così va il mondo, c'è gente che fa di peggio. Ce n'è anche uno al porto di gattine, non l'hai mai visto? No, mi pare che me l'avevi indicato o tu o Claudio, però non c'ero mai andato. E quello è grande, ce ne sono un bel di gatti, camminano sulle rocce, come se fossero marinai. Pescano il pesce, tutto grande, si mandano i rubeci che vanno in quelle pozze di acqua e cose, che se lo baci riescono a prendere. Gianni, adesso sto facendo telefonare all'amica di mia moglie per vedere quanto li pigliano a sterilizzare a Pfizer. Che a me mi pare un ladro, chissà. 400 euro vuole. Appunto, mi pare un ladro. Adesso chiedo. Perché a quella di Coso, alla gatta, lo stesso di Rita, l'abbiamo pigliato 200 euro. Adesso vediamo quanto vogliono la clinica universitaria, in via Venezia. Ha una cista prostatica, capito, da levare e fare la castrazione. La cista prostatica, la castrazione. Ehi, adesso mi informo io. A chi visto mi pare un po' curato. Non sai che te lo guariscano pure senza castrarlo, quelli là. Sì, ma la cista vuole castrato e tolta anche la cista prostatica, capito Natalia? Se no non fai nulla, la cista che fa sanguinare, come sempre. Poi la castrazione gliela fanno proprio per non avere stimoli sessuali, capito? Adesso vediamo, va. Glielo dico. Forse non andiamo assieme e ci parliamo. Gala. Poi già la a Rosalba la telefona con Cesco. Poi la vediamo con un veterinario a vedere quanto vuole. Ma la cosa deve essere fatta bene, non è la vai alla mena a futuro, io non voglio perdere il cane. Adesso le sto facendo la cura, metto di continuare la cura. Ho speso già 120 euro. Fatta bene, allora fatta male. C'è la clinica universitaria dove studiano i veterinari, lì. Ma sono veterinari giovincilli, mi capito? Questo qui è conosciuto a Sassari. Non sono veterinari giovincilli, che manco tocchino ne fanno. Ci sono i chirurghi proprio che devono fare quella roba lì. Ed è tutta niente, cazzo, manna. A Curto l'hanno curato benissimo. Curto aveva anche una cosa grossa, sai. Non era da poco. Stanca truncata in due rocchi, non lo so. Ciao Gianni, ciao Sassari. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Giulio, ben entrato. Era. Ciao Giulio, in tre posti era già stroncata la gamba, non in due, mi sono confuso io. Ciao Marco. Io praticamente l'hanno salvato proprio, perché cammina bene adesso. E te credo, si è ripresa la grande. Poi lì c'hanno tutta l'attrezzatura, latte, ghigliu, capito? Lì te lo visitano bene, il cane. Gaba. E vabbè, hanno fatto l'ecografia anche a lui quando si è voluto, gli hanno fatto l'ecografia, gli ho 70 euro di ecografia. Avanti Giulio. E continuate pure il discorso che state facendo, tanto io non sono appassionato di animali, per cui non ho, comunque ascolto molto volentieri, dopo quando cambiate argomento rientro. Proprio non un argomento, no, noi abbiamo finito, perché c'era il cane che stava male, stavamo parlando tutto lì. Ok, va bene. Comunque, poc'anzi vi stavo ascoltando a riguardo dei radiali, eccetera. Sono praticamente contento, perché tutto sommato eliminare i radiali, il fatto di eliminare i radiali lo avevo proposto io da un po' di giorni a questa parte, sembra che stia riscuotendo un successo abbastanza notevole. Vabbè, per quanto riguarda me c'avevo quel problema delle cornacchie, è un problema, me lo sono tolto. Adesso le cornacchie no, ma gli altri uccellini vanno sui tiranti, ma sono piccoli, non sono burracci. Mi sono le piante, so. Sì, abbiamo toccato il discorso scala la pesca, no? Tipo Game Master, appunto perché Luca voleva una cosa, presumo, leggera, senza radiali, voleva farsela fare, e dicevo che tu ne avevi fatto una che era indistinguibile da quella vera e credo altrettanto performante, no? E volevo chiedere a Luca, se è ancora online, ma chi te la fa? Cioè, deve essere una persona che già la sa fare bene, non improvvisata naturalmente. Luca, ci sei? No, non c'è più. Sì, stava pensando di farsela fare, o farsela, non so. Certo, se uno che le sa fare già, che ne ha fatte più di una, è meglio, perché sa le misure, non è buccia di gioco, bisogna farla con criterio, no? Vai Giulio. Non ti credere, perché è facilissimo, guarda, perché basta aprire il computer, ti dà tutto l'avaglio che serve per appunto per poterla costruire, per cui non è un problema, ci sono tutte misure, tutto, e ti fanno vedere qualsiasi cosa. Io parlo per me, non ho manualità, io sono un pasticcione, perdo la pazienza, anche avendo le misure, sai, e poi come dicevo io, mi piace molto il prodotto rifinito, tipo le cose comprate nuove, cioè, potendole spendere l'avrei comprata la Game Master, certo, non potendo spenderle magari si ripiega su prodotti più economici, purché non siano troppo scadenti, come quella famosa Ringo Lem da 39 euro che abbiamo provato quasi tutti in questi ultimi anni, no, almeno quelli più giovani, e puntualmente ce l'abbiamo buttata o regalata o fatta ad alluminio per ricambi, che veramente mal concepita, mal fatta, una bucaria era quella, Ringo della Lemma. Natalino, riprendi. Lui, Natalino, si sta sempre azzuffando con la moglie, un po' può riprendere, un po' non riprende. Lasciati dire il mattarello, mi Natalì, dietro la molla di Lugoddumi. Metti che non ero l'ascolto, che avevo CC. lanci in verticale qua. Vabbè, dai Gianni, riprendi tu. Comunque anche con questo apparato hai notato una leggera diminuzione, no, nel QRM di fondo, mi hai detto. Sì, ce n'è molto meno QRM, è molto più selettiva. A proposito di radiali, si parlava di radiali giorni fa, eccetera. Allora, io avevo lo stesso un'idea che le antenne con radiali o senza radiali potessero disturbare più o meno, insomma, su Roger K tanti anni fa avevo fatto un'osservazione, ho scritto quello che credevo di pensare io, no? E un tipo vecchio della frequenza, insomma, gente che c'è da 50 anni a radio, mi ha arrocciato perché mi aveva detto che i radiali col TV non c'entrano niente, un'antenna può avere o non avere radiali, eppure non far TV, cioè radiale è solo il piano di massa, in realtà il radiale non irradia nulla, anche uno dice, si chiama radiale irradia, no, è lo stile che irradia, quello fa solo a piano di massa, quindi non c'entra nulla col TV, insomma mi ha arrongiato, mi ha ripreso perché avevo detto una castroneria, Giulio tu cosa ne sai? Ma diciamo che in linea teorica non è, invece è così. Perché dovrebbe partire dalla carta del campo tutto quello che appunto farebbe danno, almeno così si pensa, poi bisogna vedere, che ne so, tanti sono i motivi, possono essere molteplici o manco. Infatti poi dipende anche se l'antenna TV è messa, funziona in modo appropriato, per esempio un piccolo natalino ha la sua antenna TV che è attaccata lì, non fa TVI, zero, invece fa TVI in fondo al vicolo, niente meno, figurati che antenne hanno. Forse c'entra anche il cavo, che ne so, cavo meno schermato può influire, sai, meno schermatura c'è sul cavo, tipo RG58, magari quelli, io mi ricordo di aver avuto RG58 buoni, dove vedevi una fitta calza, ma c'erano anche RG58 di dubbia provenienza, penso cinese, dove calza ne vedevi poca, due filettini intrecciati, lì se la schermatura non è buona, a parte che può creare anche casini con stazionarie, no? Alla fine se non scherma, capito, irradia pure il cavo, ma ce lo diventa. Vai Gianni. È andato sempre benissimo, l'altro che avevo c'avevo 17 anni, non ti dico altro, e funziona sempre, se l'ha preso Luca, mi sono messo a fare, se abbia due Luca. Ehi, avete parlato in due, chi era l'altro, Giulio? Io ero, grazie poche pezzi giugiate a Favità. Ho detto che disturbo anche quello che c'è sotto il mio palo TV, perché in punta c'è la mia antenna e sotto c'è un'altra antenna, a quella li faccio TV, a quella di sotto e a quella di sopra no. Come si spiega? La risposta ce la sai già, no? Ci sono impianti TV fatti bene, impianti TV fatti male o vecchi. Sempre lì siamo. Ma ho perso il filo adesso, dai, stiamo parlando di schermatura. Ah Gianni, comunque, vabbè, nel mio caso, se avessi saputo che per pochi centesimi in più c'era l'H1000, alla fine io ero fissato con 213, pochi centesimi in più avrei preso direttamente l'H1000, purtroppo è poco flessibile come questo, avrei avuto anche meno perdita. Poi, anziché la RG58, almeno a questo punto preferirei l'H155, che è il medesimo, è come le RG58, è praticamente di color grigio la gomma, fuori, la guaina, ecco. E però rende come un 213, cioè c'ha la perdita, perde quanto un 213, cioè perde meno del 58. Quella è una scelta intelligente, perché vuole un cavo sottile. Poi ne sono usciti anche cavi di tanti tipi di marche, tipo Messi e Paoloni, che io non conosco nemmeno, non li ho guardati. Hanno tutti nomi strani, c'è il Flex Ultra, Flex Air, Flex, tutto Flex, capito? E c'hanno schermature doppie, tipo il rame più quel foglio di, come si chiama, di alluminio, no? Tipo appunto l'H155. Più numero buoni, chi ha il conduttore in rame centrale, chi ce l'ha invece tipo colore, no, già capito, non me ne intendo molto di cavi, dai, vai Giulio. Ok, sì, beh, l'originale H155 è il Belden, quello marchiato Belden, che c'è scritto anche sulla guaina, per cui quello va bene. Poi ripeto, le cause possono essere molteplici, naturalmente sono modernate anche all'impiantistica che te le trovi attorno, capito? Sì, infatti. Io non so, vedi, c'erano molti anche dagli anni, da 30 anni fa, no? Io ho sentito varie cose, molte erano anche pregiudizi su cavi, antenne, no? Le avevo sentite 27, tuttora le sento anche su siti tipo Roger K, no? Però questi pregiudizi, queste false informazioni te le inculcano in testa e poi anche non sai manco più che pesci prendere. Si diceva una volta che anche per la 27, ecco, facciamo un caso, per la 27 bisognava usare il cavo di multipli di 11 metri, regola poi mai seguita e mai avuto problemi. Quando ero nella vecchia casa che avevo una Grand Plane, ho messo il cavo che bastava, cioè 30 metri a occhiometro, 30 metri arrivava abbondante, 30 metri ho preso. Non so se è mai valsa quella regola degli 11 metri, non ho mai capito. Vai Natalino. Addirittura di quanto è bello isolato il 155 che ho io, c'è anche la carta argentata come quello della televisione. Sì, come il cavo SAT, esatto. E infatti è buono, mi piace quel cavo, purché sia Belden. Io quando l'avevo preso da Fusaro, 10 metri, avevo chiesto se era Belden originale. Sì, 10 metri, ti faccio vedere proprio il cavo, Belden. No, perché ci sono anche copie cinesi, copiano tutto, copiano, è una cosa indegna. Eppure lo fanno in Cina. Poi se vi racconto, una volta ho preso i cavi per la macchina, il cavo rosso e nero con le pinze per far partire macchine in panne, no? Con la batteria scarica. Però questi cavi avevano proprio il cavo insolitamente morbido, ho detto come mai così morbido e flessibile? Insomma vado un po' a spellare, praticamente il conduttore era tipo filo di baracchino, sai di quelli tipo FM500S, cioè già avete capito, roba da bruciare i cavi al primo avvio mio, alla prima partenza. Infatti poi li avevo presi lo Shan, il conduttore era parecchio più grosso, cioè se ti dicevano che reggeva 50 ampere le reggeva, lì ci hanno messo un filettino sottile ed era tutto guaina in silicone, no? Non guaina, già capuffa. Sì, guaina quello. Ecco, quelli sono gli imbrogli che fanno i cinesi e sono anche pericolosi però, perché boh. Io me li ho fatti io i capi. Non so da quanti millimetri quadri l'ho messo il rame. Se non c'è rame la corrente è lui. E arrivi domani alla salatteria. Ma poi penso che te lo bruci, se è sottilissimo, te lo brucia pure come va a assorbire il motorino di avviamento dell'altra macchina. Quelli purtroppo me ne sono accorto tempo dopo, però stranamente morbido, ho detto che morbidi che sono, c'è qualcosa sotto, fa Napoli a me. E poi bastava guardare sotto la gomma che isola la pinza e si vedeva lì che il filettino era tipo divisi da, sarà stato massimo 10 ampere, quelli dei baracchini tipo FM500S, quelli dell'epoca, proprio un conduttore schifoso, sottile. Quelli non si neri, dai. Sì. E poi vabbè, la copertura era morbida di suo perché era silicone, no? Adesso molte guaine stanno facendo in silicone, no? Che sono molto morbide. Vabbè. Però lì ci mettevano furbi, no? Loro come fanno il marchio CE contraffatto, no? Che vuol dire China Export, lì ci hanno scritto tipo 100A, 100A, che però se vuoi chiedere a loro prima, no, non vuol dire 100A, questo è il modello dei cavi 100A, sono dei farabuttini, capito? Per certi versi. Te credo. Allora sai quali vanno bene i cavi? Per avviare la macchina, quelli di saldatrice, che c'è un mezzo rame lì, che è grosso quanto è un dito, chi si attacchi lì, si arrivi, chi si era appassionando davvero la corrente. Vabbè, che se è una utilitaria a voglia, ce n'è davanzo me, io li ho presi da Auchan, conduttore ce n'è. Vabbè, se sono macchine con motori di avviamento tipo elicottero, allora assorbe molto di più. Dai, riprendete un po' che vado bene. Per andare la mia che dice, la PSVRD. E figurati quelle macchine americane che hanno quei motori 5.700, 6.800, c'hanno praticamente il motorino d'avviamento, già ti muove un camion. No, quelli a benzina sono sempre piccoli i motorini, quelli diesel è che sono grossi. Bisogna avere cavi di lusso, se no non li fai partire, perché è un bel forte a farlo partire il motorino della macchina diesel. Comunque vabbè, salvo scopi particolari, i cavi ordinari vanno più che bene con macchine normali, dai. Poi mai usati, e si spera di non usarli mai, perché poi devi trovare la persona pia che ti aiuti, che si affianchi con la macchina, sai, certi non perdono tempo nemmeno. Poi non sei, di questi tempi non sai mai chi è quello accostato con la macchina, magari finge un guasto, qualche vaso, cosa ne so, ti dà una pugnalata e ti ruba la macchina pure. Una volta ho fatto partire a Gianni con l'ambulanza, perché sono arrivati all'ospedale, hanno lasciato tutta la roba accesa, condizionatore, lampeggianti, ghiso. Andano a punire in moto e non punire più in moto l'ambulanza, un'ambulanza nuova. L'ambulanza può essere nuova, ma la batteria può essere difettata di fabbrica. Capita, è capitato anche a chi? Qualcuno che conoscevo, ho comprato una macchina nuova, va a ritirarla, gira il quadro e si dice, non partiva, la batteria tolta dalla plastica installata era già guasta di serie. E quindi li hanno cambiata perché la macchina era nuova. Dai, riprendete un po' voi che mi sto... è l'ora un po' della biocco. Riprendete voi, dai, sto esaurendo la favella. Vai Giulio. Fai così. Così ti vuole andare. Falla con muro. Lascialo che deve andare a pranzare. Sì, comunque anche quello che ha detto poc'anzi Marco a riguardo del multiplo eccetera, quello è importante, però solo in linea teorica però, nel senso che se vuoi fare una cosa veramente perfetta devi tenere in considerazione quello, poi un metro in più, due metri in più, 50 centimetri in più o in meno a noi poco ci interessa, però tecnicamente si dovrebbe considerare anche quello. Io l'ho sempre seguito per quello lì, la verità si dica, se uno deve mettere 22 deve aggiungere 2 metri, cioè se deve mettere 20 metri di cavo, faccio 11, 11, 22, io sono 25. Immagino anche sotto multiple degli 11 metri si possono... Ti spiego, le antenne veicolari quando le compri, quelle che hanno il cavo almeno, no? Ti danno chi ti dà il cavo da 3 metri, chi da 3,5, chi da 4, chi da 5 addirittura, no? Alla fine come si usa i multipli, in teoria bisognerebbe usare i sottomultipli tipo 5,50 o roba del genere, 2,75, ma poi alla fine non è mai così. Te le danno come escono. Guarda, il calcolo più facile è questo. considerando che dalla tutta la linea di discesa deve essere considerato di 45 cm in 45 fino ad arrivare alla distanza che ci occorre. Tutto lì. Ah, poi anche per gli spezzoni. Si diceva all'epoca 27 gli spezzoni dovevano essere, sai, tra barchino e rosmetro di 45 cm o 90, però non credo di averla mai seguita, cioè io come lo facevo comodo lo spezzone, no, non corto, certo è corto, poi viene male anche a maneggiarlo, ma alla fine non lo so. Sì, ma ho letto anche online battibecchi tra radiamatori che sostenevano chi una cosa, chi l'altra. Alla fine la verità non si sa se stesse nel mezzo oppure no. Insomma, il radiamatore proprio da 30 anni dice non è così, e l'altro dice ma è così. Va bene. Riprendete, fai Gianni, riprendi. Sì, io per dire il cavo dell'antenna carbone della macchina era 5 metri giusti perché li ho misurati. Perché poi l'ho rifatto nuovo, dopo un po' di anni l'ho rifatto nuovo e devo sapere quanto era, quindi l'ho misurato apposta, 5 metri. E non tutti ti danno cavi da 5 metri, Se per esempio comprando quelle antennini piccoli, Midland, Intec, insomma le varie marche, no? Quelli da macchina, quelle magnetiche che però rendono poco, è vero. I cavi sono di lunghezze variabili, 3-3,5, dipende quanto tirchi il venditore, se è particolarmente secco a malapena te ne dà 3 metri di cavo. Io adesso vi compro la magnetica, ci metto la Turbo 2001. Sì, c'è la base sua, addirittura proprio della LEM, c'è la sua base, e mi pare sia da 16, e c'è un magnete bello potente. Ma tu avevi paura che, bene o male, sai, le particelle di polvere, tra mettere e togliere, si graffiasse il tettuccio, giusto? Sì, già successo, mentre l'altra macchina, a furia, perché a volte vai a togliere la dritta e non esce, è talmente forte che non esce, quindi devi tirarla di lato per staccarla, e un po' così si graffia il tettuccio. Eia, l'importante è che il tettuccio sia pulito, anche quando la macchina è lavata, io usavo un panno tipo cotone idrofilo, no, quello per farti le iniezioni, no, per pulire la coppa, per togliere proprio le particelle di coso, ma quando la macchina va era più nuova, poi come si è graffiata col tempo, ma me ne frega assai. Una cosa che non ho mai trovato di ricambio sono le cuffie di gomma per le basi magnetiche. Un sito addirittura, FLQ Elettronica, diceva che per le basi Midland c'era la cuffia di ricambio, però poi vai a cercare l'accessorio in ogni negozio del pianeta e la cuffia da sola di gomma non te la vendono. Ti devi arrangiare tu con un membrane di gomma, con altra roba. Bisogna avere la fortuna di trovare, se no la fai con la camera d'aria, con qualche cosa del genere. La fortuna di trovarne una che si adatti, però non è che sia così facile. Infatti, la camera d'aria, roba sottile, perché quando è troppo grossa poi potrebbe inficiare sulla forza del magnete, sul metallo. Aspetta, ho detto una fesseria, inficiare cosa vuol dire? Influire in modo negativo o positivo, adesso non mi ricordo. No, non devo usare questi termini forbiti quando non so cosa vogliono dire. Non mi ricordo se inficiare vuol dire può peggiorare o migliorare adesso. Peggiorare. Peggiorare, Natali. Comunque già. Ho visto che le antenne magnetiche sotto il metro rendono poco. Sì, magari in città riusciamo ad ondularci, ma rendono poco, veramente poco. E più corta è, peggio rende. Invece se vai sopra il metro, possibilmente generosamente sopra il metro, tipo dal metro e mezzo in su, comincia a essere già una cosa più seria. Però quelle corte, addirittura ci sono da 20, ce n'era una Intec che te la regalavano col baracchino, addirittura quelli omologati, no? Pare fosse 29 centimetri, ma non voleva vista nemmeno. Sono entrato. Come stai cercando delle cuffie? Allora, Claudio, per esempio, se volesse la cuffia originale di una base magnetica, visto che nessun sito le vende, quello c'è originale del modello che vuoi tu, no? E il sito FLQ Elettronica diceva che volendo erano disponibili le cuffie di ricambio per le basi Midland, però poi andava a chiedere e non ne aveva, e non ne trovi in nessuna parte del pianeta in vendita, né in Europa né in America. Forse è un ricambio che non hanno interesse a fornire, perché appunto quando ti si rovina tutta la cuffia, uno o se la aggiusta con camera d'aria, come ha detto Gianni, o roba simile di gomma, oppure si cambia la base direttamente, la base magnetica. Forse loro hanno più interesse a vendere una base magnetica nuova, quello è vero. Ah, la base di sotto? No, assolutamente. Guarda, io quando sono stato in fiera a Novero, alla fiera del Radioamatore, vicino a Milano, c'era di tutto e di più, anche i supporti, c'era una bancarella a venderla di tutto, cioè vuol dire di tutto, qualsiasi tipo di connettore, manopoline, tasti, tastini, supporti per le basi magnetiche, supporti, guarda, di tutto e di più. Io ne avevo preso due, perché avevo due basi magnetiche della Sirio, di cui una ce l'ho ancora, c'è un'antenna VU attaccata, ce l'ho su Massarda, e una l'avevo data a Maurizio della Sirio, proprio la faringomma che è un po' elastica, la tiri e la metti dentro nella sua sede, capito? E ce ne aveva tutte le misure, addirittura aveva anche i cappuccetti di ricambio per le cuffie, capito? Anche quelle aveva. Poi avevo preso tutti i cosi, le spugnette antisoffio, ci aveva di tutto e di più, guarda. Questa è una bancarella che c'era lì a Novego, alla fiera del Radioamatore, capito? Allora, di tutto e di più, aveva anche i supporti di ricambio, quelli in plastica per i MC60, per gli SM20, per tutti i microfoni da tavolo, che a volte si rompono, quelli a fare nere il supporto di plastica, aveva anche quelli. I tappeti già pronti da 30, da 60, da 90, da 120, da 1,40, c'erano già tutti i svettori pronti, tutti i connettori, tutto quello che serviva. Cioè, è che noi Sardegna siamo troppo handicappati, non c'è niente da fare. Magari in fiera, sai, mi pare Novegro la più grossa, o qual è la più grossa? Fiera amatoriale. Magari sono cose che danno proprio per attirare, però se tu vai a vedere sul catalogo Midland o addirittura il catalogo Sirio, la cuffia di ricambio delle basi magnetiche non è proprio in catalogo, non esiste come ricambio. A meno che non siano cose di ditte tipo, che ne so, la Proxel, sai, quelle ditte nuove, magari qualcosa la producono o la importano dalla Cina. Vabbè, dai, fate girare. Scusate, vi saluto, ciao. Chiudo, ciao a tutti, chiudo, devo diventare adesso, ciao. Ciao, Ronaldo. Ciao, Giulio. Ciao, non sapevo c'è che tu, ciao, buona serata. Ciao, Giulio, ciao, buona prosecuzione di serata, ciao. Comunque, Marco, già ci sono, magari non sono pubblicizzate queste cose, però ti ripeto, quando vai in fiera, trovi di tutto, cose allucinanti, capito? Ecco, lo sta scavando tutto il lettino, guarda, una cosa allucinante. Trovi di tutto e di più, guarda, c'è di quelle antennine di ricambio per i portatili, che ti danno altre cose, non omologate, no. Ci sono proprio le sue omologate, quelle originali, quelle non originali, di concorrenza, c'è di tutto, strumentini, smitter di qualsiasi tipo, devi trovare il coso giusto. Io mi sembra che me l'avevo scritto anche, so che si chiama Giovanni, ma non mi ricordo la ditta, perché l'avevo chiamato un paio di anni fa a mandarmi dei connettori N, PL, adattatori, quei BNC, quei barilotti NN, capito, che noi li usiamo, e me l'ho fatto un pacchettino, una busta, me ne avevo messo una decina, due di ognuno, avevo pagato 10 euro, ma non avevo pagato neanche il trasporto. È una persona molto, molto gentile. Se trovo l'indirizzo te lo do, se dare la misura della base, perché ce ne sono diversi tipi, deve sapere la misura giusta, giusta. Marcolino, perché rotta ti siate? No, limite, sai, piccoli forellini, forellini da mezzo millimetro, no. Io poi quando piove non lo uso mai l'antenna del baracchino. Allora ho parato troppo presto. Allora, quando ho cercato io non ce n'erano. Adesso sul sito Radio Assistance, no? Allora, ci sono gomma di ricambio per base magnetica, però marca generica, c'è da 150, quindi 15 cm, 14,5, 12,5 e 9 cm. Però credo che sia una cosa tipo un disco che poi deve incollare i lati. Io parlavo di ricambio originale, proprio che ha quel risvoltino, no? Che entra nel bordo, già hai capito già. Comunque qualcosa c'è. Pochi pezzi oppure esaurito, vabbè, comunque bene o male li hanno fatti, dai. Anche a costo di incollarlo si può fare, si può fare. Questo tale Radio Assistance, il sito. No, io me ne ricordo che si tirano, si allargano, e si incastrano così senza incollare, va. Allora, quello che ho preso io sono elastiche, c'hanno il bordino e vanno sopra, poi la base magnetica. E bordano per non entrare l'acqua, è un tipo di guarnizione, capito? Cosa devi incollare? Misura per col carico e poi le dai la misura in millimetri quadri, in centimetri quadri, vedi un po' tu, basta sia rotonda la misura, capito? Se questi ce l'hanno, li contatti e te la fai mandare, questo lo feci via, io mi pagherò. Ma ti parlo di tanti anni fa, poi era andato Andrea, mi aveva portato un po' di connettori, spinette, maschi, femmine, aveva anche i ricambi per i cable, defigurati, tutto il cavetto completo di alimentazione maschio e femmina, che a volte si bruciano, si fanno, si riscaldano, aveva di tutto e di più, ti ho detto, di tutto e di più. Quei connettori a 8, a 6, a 5, a 4, quei connettori clippati già pronti di tutti i tipi di radio, tutto, io infatti avevo preso un cavetto lungo già clippato per attaccare il frontalino estraibile, quando ce l'avevo in macchina, che costava originale mi pare 15 euro, lì l'ho pagato 5 euro, fatto da lui, è bello, è nero, tutto a bocca, è una persona che è molto brava, è un po', se ce l'hai, se no ti prendi la misura, e glielo dici a questi se ce l'hanno. Comunque è buono anche che si trovi questi dischi di gomma grezza, no? Per esempio Gianni, nella Midland, quella da 1,60 con base magnetica, lì c'è proprio un bordino che deve coincidere, è fatto apposta, mi deve entrare in questo bordino, non è solo poggiata sotto o incollata sotto, ecco perché dicevo. Comunque buono sapersi. Forse si cerca su qualche sito cinese, se no la gomma sottile, dove si può comprare gomma sottile, che sia anche più sottile della camera d'aria, tipo metro quadro, non so che usine facciano poi. Tipo la camera d'aria, non va bene, devi incollare, una cagata, aspetta un attimo, mi prendi già. Ma Marco, non interessa che comunque se proprio non la trovi gli fai la forma di sotto e basta, senza avere bordo, e le la incolli sotto, lo faccio io, così vuoi una camera d'aria grossa, lo vedi come ti deve. La prima cosa che devi fare è sapere quanto è di diametro, e poi non ce n'è problema. Un metro la misura da una parte all'altra. Infatti, perché c'è da 150, da 150, da 150 mm, 140 mm, dipende, sto guardando io uno che me ne hanno mandato adesso e ci sono, le vendono, tranquillo che le vendono, e c'hanno la bordatura per tirarla. Invece la Sirio, la base Sirio da 100. Noi siamo manco un caso della Ciappa. Abbiamo parlato in due, ripeti già. Ho detto, metti venditori, ricambi base magnetiche. E così lo trovi. Sì, vabbè, qua l'ho già trovato uno. Tanto vale prendere la più grande. puoi adattarlo, c'è un'infinità di base magnetica di tutti i diametri. Dicevo, quella da Sirio, la base magnetica Sirio da 16 cm, quella super ribassata, è piatta piatta, addirittura sotto non ha la cuffia di gomma, diciamo che c'è la rivettazza, è tutto nuovo la base, in poche parole, una specie di, una cosa simile gomma, sembra plastica morbida, non proprio quella membrana di gomma, quella se vogliamo è anche più duratura. Un po' meno delicata sulla carrozzeria, ma tanto la macchina è vecchia, quindi no. Vai su Amazon Home Track, c'è la gomma ricambio singola 122 mm, c'è anche referenza dell'articolo. Eia. E vuol dire che forse la Proxel le ha introdotte, no, quelle ditte italiane. Prima, anni fa, quando anni fa l'ho cercata, non ce n'era, manco a morire. Allora, Comtrack, sì, adesso la cerco. Comtrack, K finale, è una truffa, 3 euro costa il ricambio, 5,60 euro di spedizione, per carità, una truffa totale. Se è marca Comtrack è probabile che sia, io è l'elettronica a venderla, sa che c'ha tutta roba Comtrack, antenne VU e non solo, tante cose marcate Comtrack. Adesso controllo, come detto, Comtrack, gomma, ricambio a base magnetica. Sì, gomma, Charlie Oscar, Mike, Tango, non vedo un cazzo, Tango, Romeo, Alfa, Kilo, Comtrack. Gomma ricambio singola 122 mm, referenza 400010, prezzo 3 euro più 5,60 euro di spedizione, una truffa. Millami, aspetta, gomma ricambio, Amazon, e vedrai che il venditore è IL, mi? Cioè 3 euro ti costa la gommina lì, la membrana, e 5,90 la spedizione. Mi venditore IL, te l'ho detto. Sì, appunto, solo IL elettronica può fare una cosa del genere, non si vergogna. Questo costa 3 euro il ricambio, 5,60 euro la spedizione. E cos'è? Ma per carità di Dio. E infatti lì conviene fare un acquisto più grosso. Ah, e sto notando una cosa, guarda, c'è, nella foto è ripresa da sotto e da sopra, se tu guardi sopra c'è un risvolto, c'è un bordino risvoltato, credo che sia proprio quella per la base mia, o simili, dai. Perfetto, così deve essere, non incollare. Quella la tiri e poi va a chiudere la base magnetica, però fa entrare acqua dove c'è il contatto, capito? Però graffiarti anche la macchina, è così, vabbè, dopo tu comunque ci sono, non ce n'è problema, ce n'è da tutte le parti, io ti ripeto, anni fa li trovai in fiera ed era una cosa che già esisteva, quindi credo che ci siano ancora in vendita, infatti ci sono. Vai Gianni. Ehi, se no ti copri tutto quanto l'uovo, Marco, già ci dai su di tirare fuori. Eia, no, comunque non c'è il tanto da cambiarla, si è anche rotta di più nel frattempo, ma ci ho messo due punti di risolto il problema. Poi quanto la sto usando l'antenna del baracchino, ormai non è più come una volta che trovavi gente dalle 3:30 del pomeriggio fino alle 9 di sera, non ho più voglia la gente, dai. Pazienza. Oh, c'ho più antenne che capelli. Già capelli ne ho molti. C'ho una marea di antenne tutte ammassate, di tutte le bande. Quella HF, quella con i ponticelli, la Proxel. Andava anche discretamente. Qui lo dico, qui lo nego. Oh Marco, ma se metterci un po' di silicone nero dove c'hai i buchi e ti ruddati, lo togli fuori dall'antenna, la gomma, li metti silicone nero, poi li metti un po' di saliva e lo fai liscio. Eia. Che poi serve quella cortezza, quando piove, perché sennò ti infreddi già sotto il magnete, ti infreddi già tutto. Io però l'antenna della macchina, sai perché è così nuova l'antenna mia del baracchino, quella Midland da 1,60, perché non ha mai preso pioggia. Io non usavo mai antenna baracchino con la pioggia in macchina, proprio per non sciupare le antenne. Allora cosa mi hai a fare? Io la tratto in un lì, no, io la trattavo in un lì, condizioni di tempo, anche piovendo, andavo a portare a lavorare, se pioveva io modulavo lo stesso. ce l'arrivi fissa già, lui l'ha sempre usata a base magnetica. Che la fissa si può togliere, basta smollarla e la tugge. Mi è rimasta mi, la Mantova, ma la Turbo 2001, c'ho lo stilo ancora, l'attacco non ce l'ho perché praticamente l'ho lasciato attaccato alla macchina, però c'ho l'attacco della PDC 800 ed è uguale identico Marco. Certi erano intercambiabili, poi una volta c'erano un sacco di marche, di antenne, Sirtel esisteva, ecco, LEM, ma la LEM adesso ha chiuso o non ha chiuso? Come la Sigma, la LEM è aperta oppure ai minimi termini? Niente ne sapete. Io non ne ho, vabbè, la LEM fa anche la Turbo, no, no, la LEM sta ancora andando perché ha fatto la Turbo 2020. Pure, ma è vera questa cosa che alcuni soprattutto camionisti sono lamentati che avevano fatto una versione di Turbo 2001 che aveva, non so se una variazione nello stilo o nella bobina, e molti sono lamentati che non gli tornavano i conti e non gli funzionava dovere, giusto? Sì, andavano meglio quelle vecchie come ce l'ho io, gli stili andavano meglio quelli vecchi, ricevevano e trasmettevano meglio, come stili. Sicuramente la carica non cambiata, quelli stili di quelli che avevo io, l'unica cosa è che dovevi mettere le silicone dove c'era la scritta Turbo 2001, hai visto, sia in un'epoca nell'altro, io ho riempito di silicone con trasparente, non si vedeva nulla, perché se no entrava acqua e li faceva rugginire. Allora prima gli ho messo il cerricino, ho aperto tutta la bobina, gli ho messo di nuovo quella placca in plastica che c'è, poi gli ho messo il silicone per bloccarla tutta attorno. E era un bombo, non dava problemi. Se c'erano stazionari bastava che ripassassi un po' di lana d'acciaio nello stilo con un po' di CRC e tornava a gogo. Addirittura se ero in macchina, no, che iniziavano due gocce di pioggia subito, quelli tipo a me, e staccavo la base magnetica subito e la mettevo dentro. Poi ho avuto sempre il sapore di fulmini, soprattutto se sei in luoghi aperti. Vabbè, se la macchina fa la gabbia di Faraday, ma che ne so io se il fulmine becca lo stilo e poi attraverso il cavo ti entra in macchina. Che esagerato che sia. Sì, vabbè. Oh, io la stessa cosa quando c'era la trava bagnata, non sono mai uscito in moto, quindi ancora oggi lo faccio. Perché poi la rottura di palle è stare a pulire il motore, le ruote, i cerchi, tutto, capito? Non ho mai fissato, è così, è o fare tre di campagna con la macchina, assolutamente, soprattutto quando aveva piovuto magari per due giorni, poi c'era il sole, due o tre giorni il sole, si fermavano quelle portanghe, perché c'era la macchina bella pulita con una gomma, dovevi passare in mezzo a quelle cose. Quante volte ho lasciato nella strada io la macchina, quando andavo a lavoro, a sorso, proprio per non sporcarmela, capito? Andavo a prendere la furgonetta, più uscivo con la furgonetta, quella lasciavo nella strada. E così è, quando uno è così, non c'è da fare. Quello della macchina anche io sono così, evito stare in campagna, pozzanghere e via dicendo. C'è gente che si nafuggi, no, io no, anche con l'albero così, la tenevo pulita, tu già lo sai. Infatti te lo sto dicendo, Marco c'aveva di tutto dentro quella macchina, bottiglie, buste di mondezza, carta, cartone, sabbia per i gatti, ci aveva di tutto, però si preoccupava che si bagnava l'antenna. Ti ricordi quella volta? Ma che idea, una volta ero venuto a prendere, non mi ricordo se ci siamo visti, non mi ricordo, come si era in questa macchina, tu presente qual è una discarica Gianni, uguale, precisa identica, questi piedi in mezzo alle bottiglie vuote di plastica, nel tappeto, dietro la terriera del gatto, mi giri tutti i beni di mondetta, detto, ma che cazzo ti amano questa macchina? Invece io mi incasinavo in mezzo ai capi che metteva, quando mi scendevo in macchina sua, i capi sparpagliati. Sì, che poi io il repulisti grosso lo facevo solo a ogni revisione mia. E boh, perché io bevo media acqua, poi buttavo, non mangiavo tramezzini, buttavo la buccia, no, dei tramezzini confezionati dietro. Sì, io l'ho sempre trattata di cacca la macchina. E i cavi lo stesso, adesso è anche peggio già, pare una centrale elettrica. Il cavo della, come si chiama, la webcam della macchina, la dashcam. Poi c'ho adattatori vari per lo stereo, no, per trasferire la musica allo stereo. Un bel cavo ci sono, anche Natalino te lo può dire. Ma poi a proposito dei cavi dei ballerini, ma IVA poi l'hai più visto? Sì, quando io l'ho visto? Tre giorni fa l'ho visto l'ultima volta. È un po' incicciato di tosse, di anche lui un po' l'ha preso di striscio. Poi vabbè, questi giorni stanno andando a trovare il padre, Giuseppe, che purtroppo sempre ha quelle cose respiratorie, insomma, non sta bene. Ma sono le 8:10. Le 8:10 sono. Sì, del padre già lo so, perché ho visto. Ci hanno visti, cazzo, ma sono dimagrisci, ma come si fa, cazzo? Ma sta diventando un tonno. Cazzo, ma è diventato grasso. Io gli ho detto, secondo me che lavoro trovi, dovresti perdere peso, perché se no nei movimenti è un macello, poi sai come si invecchia, se sei pesante è uno, vabbè, non dico a questa età, ma quando uno invecchia ancora di più, se è pesante e si ammala, è un problema anche girarlo e fare tutto, e poi dovrebbe perdere il vizio del fumo, gli ho detto varie volte. Bene non fa, poi lui c'ha l'esempio in casa anche, no? Anche Natalino lo dico, Natalino non fumare, datti al sesso selvaggio ma non fumare, datti all'alcol ma non fumare. Vabbè, l'alcol poi è sempre, devi scegliere quale morte, no? Però fumo bene non fa, quindi se si riesce a smettere è una cosa buona. Anche perché Ivan faceva pesca in apnea e quindi se lui smettesse di fumare potrebbe ricominciare a fare attività subacquea e avrebbe un bel fiato in più, un bel. Ma di chi state parlando? Non ho capito. Del figlio di Vela 3. Ah, della ricostruzione. Ma sai cos'è? In Romagna abbiamo già tutti, però bisogna regolarsi. Lui poi lavorando in pizzeria, chissà quanto mangia. Ma proprio in pizzeria magari no, però a casa magari si tratta bene. Poi può essere anche costituzione mia già. Per esempio io già c'ho stomaco, però se dovessi ingrassare in base a quello che mangio io dovrei essere adesso un obeso. Per fortuna appare che il metabolismo sia alto e quindi riesco a bruciare, però già ce l'ho un po' di pancia e stomaco, ma non a livelli di Ivan, mica Claudio te lo può dire. Infatti ho detto, ma ti stai dilatando nel tempo, si sta dilatando nel tempo, col passare del tempo. Oh, cioè è l'unico, cosa che la sorella non è così, assolutamente. Lui è troppo grasso, io conosco Giuseppe dal 1973, è stato sempre magro, sempre, non ho mai visto Giuseppe grasso, mai. La moglie è lo stesso, la stessa cosa, lui è esagerato, non mangia, sì, domani non mangio, infatti fatto che mangia un po' di pasticci, e poi mangia, io mangio di buona forchetta tutti i dì, è troppo grasso, siamo visti le rosse, mi sono spaventato, ma... sono freddo, perché sei fermo lui diventa un tunno, poi anche basso, capito? Fosse stato un alto, sai, è uno alto, le sta anche bene un po' di corporatura, no? Perché io non è che sono magro, però sono più alto di lui, un po' di corporatura ce l'ho, perché lo faccio a Banca Giulia, ma lui è troppo grasso. Insomma dovrebbe, se riesce è buono anche per il fumo, se riuscisse a smettere sarebbe cosa buona. E c'era un periodo che a me era venuta una pancia, sembravo un cinto, lo sai, non tolleravo le cinture, dovevo usare le bretelle, ma sembrava che avessi la, come si chiama quella di chi ha la cirrosi epatica, la scite, cioè questa pancia proprio in fuori, mi sembravo di 8 mesi. Ma sai che periodo era? Ero un giorno McDonald's, un giorno bandiera gialla. Alternato, un giorno McDonald's, un giorno bandiera gialla. Ci stavamo mangiando di brutto, non come adesso. Infatti mi era venuta questa pancia che era, sembrava una cosa anormale rispetto alla corporatura, no? Cioè braccia magre, gambe magre, ma questa pancia era in furia. Sembrava, ti ho detto, di 8 mesi, incinto. Poi mi devo operare eccetera, insomma tra una cosa e l'altra sono riuscito a dimagrire senza fare sforzi però Ma il bandiera gialla molto simpatico. Io sono rimasto a 7 euro all'epoca, ma ti sto parlando di anni fa, Gianni, adesso sarà 8,50, chi lo sa, la pappa pronta, pagavi, potevi scegliere tra vari primi, vari secondi, vari contorni, frutta o dolce, la beozia te la davano loro, non dovevi lavare i piatti, non dovevi sprecare gas, non dovevi lavare pentole, era un paradiso. E la roba ti dirò che era buona. Io non sono buono, la bandiera gialla si mangia benissimo, la pizza è molto buona. La sera fanno la pizza gialla. Ci andavo qualche volta con i miei colleghi quando avevamo rientro, quando andavamo lì, quando andavamo al Bulgarero, oppure lì dove siamo andati noi a mangiare la pizza assieme, con Daniele. Poi la bandiera gialla si mangia bene, tu vai a pranzo, è tutto pieno di operai, vanno tutti lì a mangiare. Mi pare che sia 8,5 adesso, oppure 50, una cosa del genere, prima a 7 euro. Comunque si mangia bene, sono veloci, c'è tutto, tutti gli altri, ti prendi quello che ti serve, e ti bosi, mani e tenanti. È velocissimo, capito? È proprio fatto apposta. È una mensa, diciamo, tipo una mensa. Poi è buono perché da lì prima partivano i patti anche per le scuole materne, asilo nido, capito? Cos'è? Self-service? Sì, self-service. Ma io sono andato una volta con mio padre e con Liliana siamo andati a Città Mercato, poi ce l'ha fatta l'orario. Io che andiamo a mangiare la bandiera gialla, siamo andati lì, che attraverso lo bazzabaro con la macchina, tutto quanto in alzata, cuve e cose. Sì, vabbè, c'è una chiocciola a salire, poi sopra c'è il parcheggio grande, ma si sta bene, un bel posto. E mi ricordo Franco Vidi faceva le serate lì, capito? Quando in via Pasqua mi diceva sempre, il sabato c'è una bandiera gialla, se vuoi venire, c'è la pizza, facevano la pizza, e più c'avevi l'ingresso anche per ballare, stare insieme in compagnia. Sono andato un paio di volte, poi mi sono rotto le balle e sono più andato. Cappaga. Era bella, già è una cosa bella. Si potrebbe anche andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no. Bisognerebbe andarci in greffa qualche volta. Già, ma è fariosa, non c'è più tempo. Io adesso sono intasinato un po', però se capita magari un fine settimana possiamo anche andare. Io mi sono attimo al telefono con Stefano, mi ho chiamato per fare una settimana invece di sostituzione, rientrerà sicuramente a fine settimana, ci dobbiamo vedere, ma ogni tanto già quando sono libero a prendere il caffè così lo puoi fare, ma andare a cena se puoi stare tutto il giorno andando e tornando, volevo arrivare a casa, mettermi ciabatte, pigiama e sedermi, capito? Però si può anche fare, vediamo. Un sabato sera si può fare, dai. Andiamo e ti mangiamo qualche cosa, o lì andiamo a mangiarci la faina, come volete, mettetevi d'accordo e fatevelo sapere. Io adesso vediamo, se si libera Stefano glielo dico, vediamo un po'. Vabbè, più che mangiare così a bandiera gialla, mangiare solo le stronzate, andare a mangiare una bella pizza, dove la fanno buona, o mangiare un materiale di fainei, qualcosa del genere, roba diversa, perché lì c'è tutta roba che fai anche a casa, non è che, capito, però già vediamo, ci organizziamo, io adesso sono un po' incasinato, sto macinando forte, sto seminando, adesso appena semino, vediamo un pochino. per il momento non posso lamentare. La partenza non è male, appena mi libero un pochino di queste cosette ci mettiamo d'accordo. Io anche sabato mattina, già anche sabato mattina, adesso che devo muovermi, magari in fase di assestamento, anche i ragazzi mi hanno detto, capito? Noi siamo disposti anche al sabato mattina, perché è giusto che sia così per iniziare, poi vediamo come ci organizziamo bene i lavori e i cantieri, allora magari si lavora sino al venerdì e sabato si riposa, sabato la domenica. Appagato. Oh, io vi lascio, dai, vi saluto che devo andare a dare le pastiglie a Kaiser, dopo devo andare a portarlo giù, dai, che manco oggi a Cagliari non c'è. Andave, Claudio, lo stesso problema del tuo c'ha di nuovo. Oh. Mio gli ha fatto una puntura, non gli è più venuto, non si sta più masturbando, è molto tranquillo. Adesso però dobbiamo fare passare, mi ha detto un mese e mezzo, poi le faccio direttamente la trattazione, quella che mi ha detto, tu capite. E stai dando solo le pastiglie, non gli è passato? Sì, è passato, grazie a Dio, sino a oggi è passato, gli sto dando l'antibiotico e un antinfiammatorio. Ho già speso 120 euro per la cronaca, 4 scatole di medicina. Uguale, ma c'è quanto costano? Costano un bel, per quella patologia lì costano un bel. Io ho pagato 35 euro per la puntura. E poi una scatola pagata 60, che non so se l'antibiotico o l'antinfiammatorio, adesso non mi ricordo, e l'altra l'ho pagata 20, quindi sono 6,28 più 35, fate un buon, quel cazzo metti ricca, ce l'abbiamo e ce lo teniamo. E vabbè, interessante che li bascia, perché a me mi fa male quando sta Zimaria e ti so come lui, la verità è così, perché oramai sta troppo affezionato e mi fa male quando lo vedo che sta male, capito? Non sta mangiando bene, mangia due pezzettini di carne e poi se ne va, non sta mangiando un cavolo. Figurati io, che mi sono alzato ed era una pozza di sangue, pensavo che era morto, è venuta qualche emorragia ed era morto. Invece stava facendo sangue al pisello. Mi vedo un assurdo, ma subito ho tutto pulito, lavato, cambiato tutto, la roba pulita, del lettino, della brandina, tutto. Era tutto pieno, sotto la pancia era completamente rosso, pensavo che gli era successo qualcosa di grave. Tutto lavato, pulito, l'ho portato al veterinario, sì, metti i soldi, è così, sono cose che capitano quando non sono sterilizzati, già, metto il veterinario, però è una grande rottura di balle. Al mio è capitato troppo presto, mi ha detto il veterinario che di solito li capita quando sono in età avanzata. Infatti te lo stavo per dire, a me me l'ha detto, dice cosa vuoi, il cane non ha mai fatto altre cose, è già 8 anni, è normale che le capiti una cosa del genere, però il tuo è molto più giovane, vabbè, seguilo bene. Va bene, dai, visto che c'è il microfono, ma qui io ti saluto, nel salone, in poltrona, intanto fa una decina di minuti, mi hanno detto che è pronto, quindi ne approfitto. Ciao Gianni, ciao Marco, chiunque fosse in ascolto, URT. A domani se coincide, ragazzi, ciao. Ciao Gianni, ciao Claudio, ci sentiamo le prossime, dai. Vabbè, giustamente chiama l'animale e poi ci sta male quando sta male lui. A certi non gliene frega niente, anzi certi se ne sbarazzano pure, quello non vuol dire amare gli animali, va bene. Dai, buona proseguimento di serata, buona cena, buon tutto e ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao. Anche a Natalino, se c'è ancora. Appagato, ciao, a domani se coincide, è proprio così. Però gli animali che ce li ha, come me, come Gianni, sono trattati come cristiani. E quindi bisogna curarli. Ma si vogliono di no. Ciao Marco, a domani. E poi le cure non sono mutuabili come per gli adulti, lì è tutto a prezzo pieno. Va bene, dai, ciao Claudio, ciao. Ciao, no, beh, c'è scritto l'anagrafe canina, se il cane c'ha libretto come il mio, ma sia delle medicine veterinarie che veterinarie.